iniziamo un 2024 molto molto molto ricco, e infatti era proprio un'occasione questa molto utile per riuscire insomma a dare un quadro di tutte le attività che porteremo avanti. E i nostri progetti per quest'anno partiamo innanzitutto proprio questa domenica con una collaborazione con la Bologna Marathon, in cui uniremo bande musicali che stazioneranno in alcuni luoghi della città accompagnando non solo i corridori ma proprio anche i cittadini che vorranno scendere e fare il tifo a suon di bande. Beh, bella questa idea di mettere assieme la musica, è già una tradizione che magari più all'estero se vogliamo, negli Stati Uniti, e lo sport, però è decisamente un incontro oltre che di civiltà, di intersezione tra attività fisica e arte. So che però non abbiamo solo questo, ma tanto di più. Esatto, sul filone, qui salto già in autunno, sul filone sempre musica e sport, che insomma è uno dei punti nodali della nostra attività, riprenderemo un'idea che era nata lo scorso anno con l'assessorato allo sport del comune, che è lo Sport Festival. Quest'anno saranno più giorni di attività miste, proprio in cui si incroceranno attività musicali, attività sportive, in un'ottica di creazione di un format che sì, in Italia non è molto frequentato, in Europa, ma che invece Bologna, come dire, è il giusto luogo in cui c'è il giusto fermento. Laboratorio. Esatto, quel giusto laboratorio in cui si può sperimentare un'attività del genere. Per quanto riguarda, anche se ne abbiamo già anticipati alcuni, i fili conduttori dell'edizione? Quest'anno sicuramente la musica e sport è uno, poi abbiamo tutto il patrimonio, che partiamo aprile con la rinascita, la nuova edizione del Festival dell'Ocarina a Budrio, che è una tradizione che per me è stata veramente una grandissima scoperta. Sì, conoscevo l'ocarina, ma non sapevo quanto questo strumento fosse amato, diffuso in Asia. Quindi in Cina è un fondamentale. No, sono strumenti fondamentali, che è pazzesco vedere l'entusiasmo di oltre 100 musicisti che arriveranno da Cina, Giappone e Corea, che arriveranno a Bologna e a Budrio e nei 4 giorni, perché dal 10 al 14 aprile, per celebrare questo strumento che fa parte della nostra identità, del nostro patrimonio. Quindi abbiamo aggiunto anche un aspetto culturale che chiaramente è fondamentale. Collaborazioni? Ah, qui le collaborazioni sono tantissime. Immagino. Sono fittissime dalle amministrazioni comunali, la città metropolitana, a tutte quelle istituzionali e la regione, a tutte le associazioni che fino ad oggi hanno preservato questa attività, le singole persone che piano piano stiamo conoscendo e stiamo incontrando. E all'attivo credo che noi quest'anno abbiamo poco meno di 150 collaborazioni. Non te le chiedo tutte. No, esatto. Sono la persona sbagliata sui nomi, però ci sarà occasione, no, nei vari eventi, di ringraziarli tutti, perché sono un po' la nostra, come dire, il nostro punto, il nostro contatto col territorio. Poi da lì passiamo al nostro più grosso evento, che è Entroterre Festival. Entroterre Festival quest'anno sarà su 3 regioni: Emilia Romagna, Toscana e Lazio. C'è oltre 120 eventi dal 2 di luglio al 31 agosto. Avremo modo di risentirci e di rivederci, quindi, perché Radio Città Fujiko vuole seguire passin passino tutto questo contenitore immenso. Assolutamente. Entroterre Festival quest'anno recupera questo payoff scritto dal suo ideatore Andrea Bonaccini tanto sì, tempo fa, che è proprio cultura e territorio in festival. Ecco, la nostra ambizione è creare questa grande comunità e questa grande festa che abbraccia più territori, con un obiettivo comune, che è quello proprio della rinascita dei territori di questo entroterra. Luoghi, nello specifico abbiamo parlato di Budrio, ce n'è qualcuno che vogliamo sottolineare? Ma assolutamente, io direi la città metropolitana di Bologna è un punto coinvolta nodale. È sicuramente coinvolta in larga parte. Poi cito proprio alcuni nostri luoghi pivot, io li sto chiamando. Parliamo di sport, quindi. Esatto, che sono Canossa, a Reggio Emilia, poi chiaramente città metropolitana di Bologna, Bertinoro e Forlì Cesena, poi dopo da qua saltiamo e andiamo sulla Toscana, su San Galgano, sull'area del Senese, per poi saltare sul nord del Lazio, il lago di Bracciano. Tutto questo sarà sì diffuso, ma estremamente connesso e volto proprio a creare proprio un'attività diffusa che valorizzi, no, questi luoghi. Arriviamo fino in Tuscia, territorio meraviglioso. Sì, devo dire che sto scoprendo dei luoghi fantastici. Cioè, l'entroterra per noi non è il marginale. L'entroterra sono tutti quei luoghi più o meno marginali che stanno cercando con la cultura di ritrovare una nuova centralità. E questo per noi è il punto nodale sul quale investiamo e sul quale stiamo portando avanti proprio tutto il nostro lavoro di quest'anno.